quando sei arrivata, da quando sei stata mia, da quando questo mondo ti ha visto venir su, ho avuto come uno slancio di vitalità e tutto pareva più bello che mai. Ho chiesto al mondo se valga la pena di viverla in fondo e adesso so che sei stata la sola, sei stata la prima a darmi emozioni e problemi oramai. Mi hai fatto sognare, mi fa emozionare e sei ogni istante bellissima. Sei la mia principessa, la mia cucciola. Ti sogno in ogni mia notte e vivo in ogni mio giorno. Ti amo anche se forse non ti ho mai conosciuta davvero e più senso non hai. Ti prendo in braccio e andiamo via. Se vuoi anche al mare, lo sai, pago io. Sei bella davvero, sei bella, lo giuro. Sei arrivata e non l'ho chiesto mai. Riscaldi il mio cuore, mi riempi d'amore ed ogni domanda è repressa. Te, mia vita bellissima. Whoa.